9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, e questo mercoledì 7 luglio lo dedichiamo a una cosa un po' particolare. Invece di prendere un problema del giorno, una questione che al conduttore sembra un pochino prioritaria rispetto alla gerarchia delle notizie o dei commenti dei media, prendiamo una persona e attraverso la sua voce e la sua esperienza ci interroghiamo su alcuni punti di fondo. Questa certo è la radio di Confindustria, e però a me piace che poi sul tema del fare impresa, che cosa voglia dire essere imprenditori nel paese che ha la più alta vocazione imprenditoriale tra i paesi avanzati, che ha la più alta capacità di sapersi trasformare in scommettitori su se stessi e in creatori di reddito per gli altri, che è una straordinaria capacità per lunghi decenni vista anche come una debolezza del nostro paese, troppo imprenditore, troppa piccola impresa. Però in un anno come questo, anzi in 22 mesi come questi terribili che abbiamo alle spalle, con 6 punti di PIL persi, con una posizione aspramente difesa sui mercati internazionali, mentre il commercio mondiale perdeva quasi 40 punti dopo i 6 mesi dopo le Lehman Brothers, e oggi è solo 4 punti sotto il picco invece della primavera 2008, quindi in un mondo che cambia le geografie e gerarchie, cosa vuol dire continuare a fare impresa in questo paese? Ecco, affidiamo gli interrogativi, e lo abbiamo fatto apposta scegliendo lui, perché vedrete un personaggio un po' fuori dalle righe, predica e soprattutto pratica valori e teorie e prassi un pochino diverse da quelle che siamo abituati a vedere dominanti anche tra i ceti imprenditoriali. Abbiamo scelto una figura un po' particolare ed è Mirko Gasparotto, il presidente del gruppo di distribuzione industriale Arroval d'Italia S.p.A. e della... non è un'esperienza separata, è parte integrante di Mirko Gasparotto, e è anche presidente della Onlus Mariana, associazione opera nel mondo. Buongiorno Mirko Gasparotto. Buongiorno Oscar, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, Mirko Gasparotto, vedrete tra poco, sentendolo parlare, come e perché diventa imprenditore e come ha delle teorie un po' singolari. Però iniziamo proprio un minimo di parabola personale del suo. Come è diventato imprenditore Mirko Gasparotto dal basso? Diciamo che ho iniziato dal primo gradino. Il primo di novembre del 1983 sono arrivato in questa azienda e sono stato assunto come fattorino e ho cominciato a fare le consegne. L'azienda allora era un'azienda produttiva, quindi si occupava di produzione di saldatrici e distribuzione di gas tecnici industriali, e ho cominciato a fare questa mia carriera. Poi naturalmente l'indole, il DNA commerciale mi ha portato subito a diventare venditore, poi direttore commerciale. Stiamo parlando, come state capendo anche un po' dall'accento che resta, il profondo nord-est da Vicenza, sì. E poi venditore, poi direttore commerciale, poi il 10 luglio del 1988 muore il fondatore. Questa morte del fondatore senza figli provoca un vuoto notevole nell'azienda, e io diciamo che assumo la responsabilità a 25 anni esattamente, sono nel 1963, assumo la responsabilità di amministratore delegato. In quel momento c'è un grande cambio nella mia vita personale, decido che è giusto che smetta di pensare solo al divertimento e altre cose, ma devo realizzarmi, e quindi inizia anche un mio percorso formativo gestionale, che poi è stato un percorso formativo gestionale che mi ha permesso di recuperare gli anni di scuola che non ho fatto a suo tempo, e quindi perché mi sono fermato alla terza media sostanzialmente. Nel prendere, diciamo così, la guida di un'impresa, poi se ne prende anche il controllo, sono due cose un po' diverse, perché un conto è fare il manager, un altro conto poi è l'imprenditore. Come è avvenuto questo? Noi abbiamo fatto insieme altri tre colleghi, ho fatto uno dei primi manager buyout nella storia del Triveneto, sempre con questo excursus formativo trovai uno strumento che in sintesi diceva come comprarsi l'azienda per cui lavori con i soldi del sistema bancario, e in quel momento ci fu la Cassa di Risparmio di Venezia che finanziò l'operazione, coinvolse altri tre miei amici che lavoravano in azienda, e fu un'operazione di successo perché in 5 anni riuscimmo a fare una cosa, e poi successivamente allargammo ancora l'ambito societario, includendo altre 7 persone che sono dislocate nei punti strategici del gruppo, che tuttora sono tutte operative nell'azienda. Insomma, in sostanza io credo molto nella condivisione, nel lavoro di gruppo, nel team, nella risorsa umana, che secondo me sono necessarie per lo sviluppo di un'azienda. L'azienda non deve essere una assolutamente una one man company. Oh, nel frattempo, diciamo così, da quando è diventato manager e poi imprenditore di controllo, com'è andata? Cioè, questo in termini di fattura, come, quanto è cresciuta questa impresa? Beh, l'impresa è un'impresa che quando ho iniziato fatturava allora in miliardi, 3 miliardi e 600 milioni. E oggi fatturiamo 70 milioni di euro. E quindi ci siamo sviluppati nel tempo sostanzialmente, però è stato uno sviluppo giusto, misurato, ponderato e che sicuramente è stato adeguato in tutte le sue dimensioni, diciamo. E sin qui, diciamo, sia pure per sommissimi capi, perché ovviamente l'ha fatta molto corta Mirko Gasparotto, stiamo parlando di una storia di comprensibile, non voglio dire ordinario, ma insomma da quelle parti ce ne sono tante, di successo dal basso, di un fattorino che associa intorno a sé persone decisive nei gangli di un'impresa e poi ne diventa manager, ne va alla testa come controllore e ne fa moltiplicatore di X volte il fatturato e gli utili. Però c'è un però, perché la questione non è solo questa, la questione è di quale visione continuare ad alimentare intorno a sé dopo che si è fatto questo e che continuità dare. Ecco, Mirko Gasparotto ha questo, come spiegherà adesso, ha una visione un po' originale di qual è il vero scopo dell'imprenditore. Diciamo che nella mia formazione personale un ruolo molto importante lo assume anche l'equilibrio che una persona deve avere. Io diciamo che dai 20 ai 40 anni ho sicuramente lavorato molto, ho sicuramente dato tutto, quasi tutto al lavoro, quindi non poteva essere un'esistenza che se continuare su questi binari sarebbe stata un'esistenza perdente, nel senso che di facciata magari vincente, ma poi nella vita personale, professionale e altre cose non sarebbe stata sicuramente vincente. Quindi quando a 40 anni, 42 anni sostanzialmente, faceva già parte del mio progetto di vita sostanzialmente, ho dato le dimissioni operative, quindi sono andato tra virgolette in pensione operativa, ho nominato due amministratori delegati uno dei quali è capo azienda e l'altro gestisce una delle maggiori aziende del gruppo, quindi ho delegato alla parte proprio operativa, sono passato da imprenditore a regista sostanzialmente e quindi questo mi ha dato la possibilità di estrarre tutte le migliori virtù di tutti i collaboratori, cosa che l'imprenditore dovrebbe concentrarsi, perché è un'attività produttiva a più alta resa, mentre tirando fuori solamente le proprie capacità, le proprie virtù, arriva a un certo punto in cui le ore del giorno sono queste e le capacità sono queste. Il saper estrarre, l'arte della maieutica di estrarre queste capacità negli altri, ti dà l'effetto moltiplicatore, l'effetto leva, ecco, l'effetto leva non finanziario ma l'effetto leva umano, tira fuori dagli altri il meglio che hanno. E devo dire che dando la scena a questi collaboratori, a queste persone, ne è venuto fuori il meglio, che probabilmente con l'ingombro della mia figura operativa non avrebbe avuto la stessa resa, insomma. Oh, in un mondo che è abituato a considerare l'imprenditore di controllo soprattutto nell'ambito di impresa piccola, quando non c'è una public company, insomma quando non c'è un azionariato diffuso con fondi istituzionali, operatori istituzionali del mercato che esercitano il controllo e quindi danno i voti, si cambiano i manager a seconda dei risultati a breve e medio periodo, ma invece nell'impresa familiare italiana è tradizionale considerare che la volontà di rimanere fino oltre le possibilità fisiologiche dell'età e dell'Alzheimer, spesso a decidere tu sì tu no, non si sposta un filo di ferro senza che io ve lo abbia detto eccetera, sia connaturata alla forma dell'esercizio del controllo familiare di imprese nel nostro paese. Arriva lei improvvisamente, parte dal basso, prende, fa, moltiplica, dopodiché fa un passo indietro, dice cacchio, io qui non mi posso annullare, anzi se io lo facessi impedirei esattamente quello che l'organizzazione prima che arrivassi io continuava a impedire, e quindi per primo fa il passo indietro, e tant'è che lei poi gira molto facendo queste cose, ponendosi insieme agli altri interlocutori imprenditori il problema di come si fa a risolvere il problema del passaggio generazionale nel nostro paese. Nella realtà, se dovesse spiegarlo ancora meglio, è dipeso più dal fatto che era convinto di fare il bene dell'impresa, cioè diventando regista consentiva ulteriori frontiere di creazione del valore facendo un passo non indietro, in su, in una posizione non operativa, oppure c'era anche la componente di fatica, o era la componente umana ancora di qualcos'altro da affiancare per dare un senso alla sua vita? Qual è di queste tre? Secondo me l'impresa è comunque un bene sociale, a servizio degli azionisti ovviamente, perché non siamo missionari, ma è comunque un bene sociale, ha un'impattanza nella società. E l'imprenditore, lo scopo primario deve essere quello di creare un oggetto, sviluppare un oggetto che abbia continuità. Per fare ciò deve porre le basi perché questa continuità possa avvenire, e quindi la creazione di un management. La parola management non è adeguata allo standing o alla dimensione dell'azienda. Anche il fruttivendolo può avere il suo management al suo interno, voglio dire. La creazione di questo... Io su questo la devo un secondo fermare, perché naturalmente alcuni dei nostri ascoltatori mandano raffiche di messaggi, le ne leggo uno. Uno che fa il fattorino è alla terza media, che diventa amministratore delegato. Ma va là! Oh, questa è gente che si firma, perché col numero si firma, non sono anonimi. Va là. E in più la Cassa di Risparmio di Venezia che gli dà prestiti. Oh, io non lo so, forse 30 anni fa, oggi no, questo è uno dei nostri... Era il 1990. Quindi non era 30 anni fa, ma 20 anni fa, comunque. E quindi sostanzialmente l'imprenditore, secondo me uno degli obiettivi primari dell'imprenditore è quello di rendersi inutile. Non è una provocazione, ma è una realtà. Nel momento in cui l'imprenditore si rende inutile, ha creato un oggetto, ha creato un'azienda che produce ricchezza per gli azionisti e per il territorio, ma che va oltre la sua persona. E questa è una garanzia. Mi rendo conto che per l'imprenditore fare il cosiddetto passo indietro, che poi non è un passo indietro, è entrare nella cabina di regia. Si entra nella cabina di regia e si guardano altre cose, le operazioni straordinarie, il controllo di gestione, la parte finanziaria. Ad esempio si fa consulting, io faccio consulting con i miei amministratori, con il mio management, per vedere dove posso aiutarli, dove posso supportarli, cosa posso dare, eccetera. Quindi c'è un ruolo che ti dà sicuramente la possibilità di avere una vita diversa, e che non è una vita solamente piena di day by day, di operatività, di assorbita completamente dall'operatività. Un altro messaggio, invece questo consentaneo e coerente allo spirito di Mirko Gasparotto. No, nel 96 è Fabio da Roma che ce lo manda. 96 era un programmatore sottopagato a Cococò, oggi sono partner e direttore generale di Tox, società di management consulting, che anche nel 2009 è cresciuto, lo farà anche nel 2010. Attenzione, non tutti potranno avere lo stesso successo di Gasparotto, ma comunque ci vuole coraggio, buona volontà, spirito di sacrificio, troppi si aspettano la pappa pronta. Ecco, questo è un po' lo spirito di oggi, non per criticare il tono dominante del dibattito del nostro paese della pappa pronta, però anche un po' sì, diciamoci la verità. Bisogna pagare il prezzo. Bisogna pagare il prezzo. Io quando ho chiuso con i miei amici d'infanzia a 20 anni, il prezzo che ho pagato è il non divertimento di quel ventennio, dove sicuramente ho lavorato molto, e quindi per me è stato quello il prezzo. C'è sempre dietro una storia di successo, come la mia e moltissime altre, il prezzo da pagare. Bisogna decidere qual è il prezzo e decidere di pagarlo. Oh, continuiamo un secondo per sfiorare almeno anche la cosa che questo passo in su nella cabina di regia, quindi non un passo indietro, un passo in su con minore operatività le ha consentito di fare meglio, anche un'attività, diciamo, che è un altro pezzo rispetto all'impresa che crea valore sociale, capitale sociale. Come ha detto, c'è anche poi l'azione della creazione di un capitale sociale secondo logiche diverse da quelle dell'utile, del profitto, eccetera eccetera. E quindi si è messo a fare no profit. Avevo un debito nei confronti di Dio, nel senso che per me cattolico l'essere stato sempre perfettamente fisicamente a posto fino a 47 anni, l'unica è stata l'appendicite, per il resto è una fortuna. E quindi ho pensato bene che dovevo andare oltre il fatto di fare l'offerta pratica, eccetera. Il primo di febbraio del 2002 ho creato questa società no profit con l'obiettivo di dare istruzioni a scuole in giro per il mondo. Però l'obiettivo del no profit me lo sono dato da imprenditore, quindi gestendo una società esattamente come fosse una società profit. Gli azionisti sono queste creature che stanno in giro per il mondo e che non hanno le stesse possibilità o le stesse chance nostre. In 8 anni abbiamo fatto un percorso di un certo tipo, oggi abbiamo 20 scuole, 6.500 bambini sostenuti, ma una grande sfida, una grande passione, perché vogliamo, noi del direttivo di Onlus Barina vogliamo creare questa possibilità per almeno 100.000 bambini, e questo è il minimo. Sicuramente non cambieremo il mondo, sicuramente la povertà non sarà modificata, ma per quei 100.000 bambini sicuramente la vita sarà modificata. I criteri di gestione del no profit pensate che in Italia sono 235.000 le associazioni no profit, quindi i criteri no profit hanno bisogno della nostra managerialità e io ho messo a servizio ben volentieri, perché oggi è un 15-20% del mio tempo che faccio con grandissima passione, con grandissima amore, visto e considerato che è un ritornare un po' di fortuna che mi è stata data. Ecco, io credo molto a questa circolarità del capitale sociale, che è fatto anche della restituzione ampliata di ciò che si è ampliato con la propria testa e con le logiche dell'utile, del profitto, dando più occupazione. In particolare, facciamo un passo indietro. Questa impresa si chiama Arrowell, l'impresa che, di cui poi lei è diventato manager, imprenditore, socio di controllo, e che abbiamo trasformato e moltiplicato. In realtà fa e faceva delle cose molto tradizionali. Cosa faceva? Siamo nella old economy, noi distribuiamo in tutta Italia saldatrici, utensilerie, strumenti di misura, abbigliamento antinfortunistico, quindi non siamo nella new economy e non abbiamo cambiato nulla. Quello che ho cambiato sono le persone, il team di lavoro, la condivisione. Ma la domanda è come si fa a continuare a crescere con fattori così, con cose così old? Con la formazione. È la terza area di passione della mia vita. Io dalla formazione personale, professionale, gestionale ho avuto tutto e cerco di portare quante più persone possibili, ovviamente i miei collaboratori per primi, verso la formazione. 3 anni fa ho dato vita al club mondiale della formazione. In Italia non venivano di frequente questi grandi formatori e allora abbiamo detto, io con altri colleghi imprenditori, una cinquantina di leaders che ho riunito in questo club mondiale della formazione, ce li portiamo noi privatamente. Abbiamo messo in piedi questo club, abbiamo fatto 4 appuntamenti, il quarto è in allestimento adesso, e diamo ai nostri collaboratori, che sono insieme collettivamente circa 2000, i nostri collaboratori, diamo questa formazione di primo livello, quindi chiamiamo i migliori al mondo in determinate specialità a servizio dei nostri collaboratori per una giornata con un programma customizzato. Io quello che consiglio io è la formazione, seguitela, formatevi, datevi da fare, perché l'uomo ha l'obbligo di migliorarsi fino a quando arriva il suo ultimo giorno. E diciamo, per voi i 20 mesi di crisi terribile che cosa hanno significato? Hanno significato crisi come per tutti, quindi servendo il settore industriale, i cali di fatturato sono quelli che si leggono sui giornali, ma sicuramente lo spirito è diverso. Io credo che non sono solo gli eventi a determinare i nostri stati d'animo, ma è come noi percepiamo gli eventi e come noi li viviamo. Abbiamo cercato sicuramente di limitare al massimo quelli che sono i danni, però con uno spirito costruttivo, e adesso lentamente ne stiamo uscendo. Registriamo anche noi sicuramente un incremento positivo, seppur lento, dell'economia nel suo globale. Teniamo presente che noi siamo un termometro, perché ogni giorno la nostra forza vendita visita circa 1000 aziende in Italia, quindi evidentemente abbiamo un termometro, voglio dire, della crescita che sta lentamente ritornando. Né una delle attività, oltre a questa formazione, Mirko Gasparotto gira molto, dedica parecchio del suo tempo in particolare a due filoni in cui si confronta con dibattiti pubblici e con colleghi. Uno è chiaramente quello del problema del controllo, del cambio, del passaggio generazionale delle imprese, e l'altro quello del cosiddetto coaching. Fermiamoci un secondo nel passaggio generazionale. Se guardiamo in particolare la realtà del Nord-Est, che lei conosce bene, torneremo su questo problema tra l'altro lunedì, perché siccome venerdì c'è l'aggiornamento della nuova versione della Fondazione del Nord-Est, lunedì faremo una puntata specifica di approfondimento sul Nord-Est, ma per la realtà che conosce lì e per come l'ha vista anche affrontare in maniera un po' travagliata questi 20-22 mesi di crisi che abbiamo alle spalle, la questione del passaggio generazionale, quanto è ancora un limite profondissimo da quella parte? Indubbiamente è un limite profondissimo, nel Nord-Est e anche nel resto d'Italia. È un limite nella misura in cui non si prepara, non si predispone. Ora, le famiglie che hanno questo problema qua dovrebbero partire da lontano, dovrebbero prendere qualcuno che li accompagna in questo senso, ad esempio per capire se la generazione che sta entrando in azienda ha le capacità, ha la cognizione e ha la passione per poter subentrare. Non è detto che i figli debbano obbligatoriamente subentrare ai padri in questo senso, però bisogna verificarlo, quindi non bisogna lasciare intentata questa strada della verifica. E faccio una domanda: io conosco, per esempio, io sono un grande estimatore di un'azienda italiana che ha ormai 140 anni, la Riso Gallo, che io amo molto perché vende il riso ai giapponesi e ai cinesi. cinesi, un po' come vendere, insomma, i gelati al Polo Nord. Perché? Perché si è inventato mercato per mercato, non è solo il prodotto, una filosofia di come associarlo alla cucina italiana e così via. Ma lì c'è una regola, stabilita da tre generazioni oramai. Per le generazioni successive, rispetto al membro di famiglia che controlla, innanzitutto ci si laurea levandosi dai piedi, e si devono sapere beccare almeno due lauree, perché si lavora per i fatti propri, nessuno in famiglia ti dà una mano fino a che passano i 36 anni, dopodiché si vedrà se servi in azienda, ti chiamano, altrimenti continui per la tua vita. È una regola molto rigida quella che si sono dati in quella famiglia, e non so in quante famiglie imprenditoriali ci siano regole così rigide, ho l'impressione un po' poche di quelle che conosco io. Io sono un po' dell'idea che servirebbero regole un po' così dure, lei che dice? No, le regole sono fondamentali. La separazione, ad esempio, fra la governance e fra la proprietà, che purtroppo è un tutt'uno, troppo frequentemente, è la prima regola fondamentale, no? Quindi le regole, sicuramente regole statutarie o comunque patti parasocietari o comunque patti tra gli azionisti, che devono esserci alla base, perché se ci sono delle regole, anche il rampollo di famiglia che entra in azienda ha il suo percorso, deve avere le stesse chance. Se c'è un'azienda dove ci sono 7-8 nipoti che possono entrare, tutti devono avere la pari opportunità di poterlo fare, però deve essere stabilito un percorso chiaro, e questo percorso chiaro deve essere stabilito a monte, non quando succede la cosa, perché altrimenti le aziende si sfasciano, e comunque abbiamo esempi di aziende che nella fase di successione si sono sfasciate o perché mancava la regola, oppure perché qualcuno ha lasciato il timone troppo tardi. Anche lì è un'altra cosa, insomma, lasciare il timone al momento giusto, voglio dire. Io mi ricordo che quando feci l'annuncio del fatto che non ero più amministratore delegato dell'azienda, e mi aveva la presidenza, anni? 42 cioè. Ma d'altra parte da quel momento le persone che comunque ho messo a capo dell'azienda hanno tirato fuori tutto il meglio di se stesso, e anche loro a ruota hanno come obiettivo il fatto di rendersi inutili, quindi di creare una successione nei tempi, nei metodi giusti e idonei, voglio dire. È una virtuosità che si sviluppa, e l'azienda è più forte, e tu sei più inutile, e vedi che funziona comunque, voglio dire. Comunque, su questo punto, adesso dobbiamo interromperci per la pubblicità, che si riassume: il fine primo dell'imprenditore è rendersi al più presto felicemente e utilmente inutile. Io credo che chi è a casa può essere d'accordo. Abbiamo un imprenditore che ci fa intravedere una visione, una versione, una traduzione concreta dell'imprenditore un po' diversa da questo capitalista barbicato al controllo, di cui, per esempio, se due sere fa avete visto quel film di Virzì dedicato al call center, avete avuto una cattiva rappresentazione culturale nel dibattito italiano. Non lo dico perché non ami Virzì, però mi colpisce molto come questo approccio dei giovani a un'impresa a basso valore aggiunto come quella del call center classicamente eccetera sia a quel punto così caricato di stereotipi, per cui c'è la pattuglia volante del sindacato, della CGIL, che salva come un angelo queste giovani costrette a lavorare in minigonna e a prostituirsi al capo, e il capo, siccome l'imprenditore di controllo, non solo, perdonatemi se le scopa, le mette incinte e poi le fa abortire, ma fa pure la quarta di seno alla figlia. Questo era la somma di luoghi comuni del film che avete visto due sere fa. Interroghiamoci se è questa l'impresa italiana. Io vi dico solo questo: ci saranno anche questi, ma un film che ha avuto quel successo rappresenta questi criteri identificativi come se fossero l'impresa. È davvero così? Ma io sento Mirko Gasparotto e mi dico che per fortuna c'è anche lui. Ed eccoci tornati in studio, siamo con Mirko Gasparotto, abbiamo sentito la sua sintesi, ricostruzione come da fattorino amministratore delegato, manager insieme ad altri, no, management buyout, assume il controllo di questa impresa, ne moltiplica il fatturato. Stiamo parlando di un'impresa che è attiva in un segmento molto old, insomma, fornito, vende saldatrici alle industrie, ne moltiplica il perimetro e i risultati, e poi fa un passo indietro, coerente alla sua filosofia, 42 anni, fa un passo indietro, individua altri due amministratori delegati, sale di cabina di regia, si dà una visione più strategica, contemporaneamente si dà anche al no profit per restituire parte di quel capitale sociale, di quella fortuna che ha avuto, innanzitutto essendo sano, come ci ha spiegato. Cerchiamo un secondo, oltre ai problemi del passaggio generazionale che abbiamo già analizzato dal suo punto di vista, di capire un pochino la parte che invece si identifica con questo neologismo inglese non molto chiaro a chi non si occupa. Che cosa vuol dire fare il coaching? Fare il coaching vuol dire aiutare le persone ad avere il progetto della propria esistenza, a migliorarlo, a crearlo. Bene, innanzitutto a crearlo prima, perché la maggior parte delle persone progetta molto bene le proprie vacanze, la propria casa, e non capisco perché non debba progettare bene e minuziosamente la propria vita. Che forse è una delle questioni fondamentali per capire dentro di sé che talento imprenditoriale si ha, cioè mettere a punto un preciso progetto che deve essere intersecato con la propria vita e tutto il resto. Certo, no? Certo, ciascuno di noi nella nostra vita ricopre un certo numero di ruoli. Questo certo numero di ruoli deve avere un certo numero di obiettivi di riferimento per far sì che questa musica, che la vita suoni nella maniera giusta. Bisogna che tutte queste aree, che tutte queste cose assumano un progetto, abbiano un progetto, abbiano una connotazione. Il coaching, anche se in Italia non è ancora sviluppato come si deve, ti aiuta ad avere questo equilibrio. Io stesso, essendo un ex workaholic e quindi un ex alcolizzato di lavoro, posso capire benissimo quali sono i sintomi quando una persona è veramente troppo ubriaca di lavoro, e aiuta queste persone a stendere nero su bianco questa progettualità, sostanzialmente. E poi ti aiuta molto anche per quanto riguarda, ad esempio, l'analisi dei collaboratori, che è una cosa che per me è stata fondamentale. Condividere, capire la scala di valori dei propri collaboratori e sapere quanto percorso di vita si può fare assieme. Cercare di capire come il loro apporto nello scenario complessivo può essere positivo e cosa ci si aspetta da loro, condividere i progetti, lo scenario futuro. Insomma, sono tutte cose che secondo me vanno molto bene. Il coaching serve a far capire all'imprenditore, al professionista, alla persona in senso generale che la vita si deve comunque progettare. Dice uno dei nostri ascoltatori, poi adesso apriamo le linee telefoniche per fare direttamente le domande a Mirko Gasparotti, ma uno dei nostri ascoltatori col suo SMS ci dice: caro Mirko, per diventare un grande imprenditore o comunque per avere successi paragonabili ai suoi bisogna avere grandi agganci, da soli, lavorando pulito, ma come si fa? Al limite ci può riuscire, ma poi si resta piccoli piccoli. Posso garantire che di agganci non ne ho mai avuti, non ne ho mai cercati. Esiste sicuramente, oggi fare impresa è più difficile di 20 anni fa, fare l'MBO è più difficile di 20 anni fa, però a tutt'oggi leggo di storie di imprenditori di successo. La New Economy oggi aiuta molto di più, e quindi c'è la possibilità di farlo. Non servono gli agganci, serve una visione chiara di quello che si vuole, un'accettazione del prezzo da pagare e poi un continuo sviluppo personale, un continuo miglioramento personale, perché ad ogni momento della propria vita bisogna farsi trovare pronti con la formazione e l'informazione che serve in quel momento stesso. Ecco, ci ha raggiunti telefonicamente, insieme a lui sentiremo le telefonate dei nostri ascoltatori. Ci ha raggiunto Mauro Castelli. Buongiorno Castelli. Buongiorno. Castelli che ha scritto dei bellissimi libri, l'ultimo che cito è A prova di crisi, in viaggio fra i protagonisti del Made in Italy, con la prefazione di Marco Vitale, scritto appunto da Mauro Castelli per edizioni del Sole 24 Ore. E Castelli da anni con i suoi libri, Questa Italia siamo noi, che 10 anni fa e così via, numeri uno, primi in economia, una marcia in più, campioni del mondo, grande Italia, ci ha condotto per mano a farci conoscere uno per uno storie di imprenditori che sono, con le imprese che hanno fatto, con come se le sono inventate, come le hanno fatte trasformare anche nelle diverse fasi a cui hanno dato vita, sono in realtà poi l'impresa italiana, nelle storie di ciascuno e nei modelli che ciascuno rappresenta. Sentiamo insieme a lui, insieme a Gasparotto, alcune delle telefonate dei nostri ascoltatori. Cominciamo con Stefano da Pavia. Stefano, che impressioni le fanno queste parole di un imprenditore che dice: il mio primo obiettivo è rendermi inessenziale? Una bestemmia in chiesa, nel senso che purtroppo, buongiorno Gasparotto, purtroppo la mia esperienza è quella, credo purtroppo comune a molti, di meravigliarsi dell'ovvio, ovvero le cose dette dal signor Gasparotto sono, credo, condivisibili, prima di tutto perché improntate al buon senso, e dopodiché capisco, anche sentendo gli SMS che ha letto, che ci sia la maggior parte, questa è la mia sensazione, di persone che dicono: non è possibile. Non ci crede, sì, non ci crede. Ogni tanto qualcuno si meraviglia, ricorda la scena di Gene Wilder in Frankenstein Junior? Si può fare, no? Esatto. Allora la domanda che mi viene da fare a voi, e che spesso mi pongo io, è: come lo cambiamo il DNA dell'imprenditoria italiana? Che di concetti tipo responsabilità sociale o quant'altro non credo ne abbia neanche coscienza, cioè è chiaro che... Ma io su questo sa che non sono molto d'accordo, io quando giro vedo che c'è... Guardi, adesso il problema è, mentre lo stavo dicendo mi è arrivato l'SMS, lecca culo dei padroni, questo è un classico, perché se dici che giri e trovi... Io quando giro, per esempio, nel nord-est, il capitale, la voglia di fare capitale, io mediamente la trovo, cioè... Ci sono esempi, cito, al di là di quello di Gasparotto... Diciamo, in alcuni grandi imprenditori che dominano Confindustria nel passato, eccetera, ne trovavo meno. Sono un po' brutale io nella mia polemica. Le eccezioni ci sono, mi viene in mente Cucinelli, mi vengono in mente, non conoscevo la storia della famiglia Gallo, ma che Riso Gallo che lei ha citato prima è esemplificativa, ma le faccio io una domanda, al di là delle percentuali, sì. Credo che sia abbastanza inconfutabile il fatto che non è comune come dovrebbe essere nel 2010 un ragionamento del genere, mentre invece abbiamo più un atteggiamento, da me ricorda, quello feudale, che quello che dovrebbe essere nel terzo millennio. Allora la domanda che pongo a voi è: in quali strumenti concreti ci sono per fare un brainwashing all'imprenditoria italiana, che vedo molto spesso, al di là della quota, più solerte a chiedere un'assistenza o a trovare il sistema di autogratificarsi magari? D'accordo, Stefano, chiara la domanda. Allora, prima questione, ancora troppi padroni delle ferriere, come cambiare e diffondere questi valori. Sentiamo poi la seconda telefonata, Marco da Reggio Emilia. Sì, buongiorno, mi sente? Sì, dica. Una domanda banale, faccio una premessa, non è una domanda a catto comunista perché sono un liberale. Ma no, ma quando anche, qui si rispettano le opinioni di tutti, non si preoccupi. Cioè di solito sono gli ascoltatori che non rispettano le mie, che però ho il microfono quindi hanno ragione, ma tutte le opinioni sono ben accette. Una domanda così antropologica, quanto conta l'ambizione nel denaro per un imprenditore? Al di là di tutto quello che poi uno vuole fare come realizzazione professionale, alla base ci deve essere o può essere anche... al di fuori di questo. Quindi la seconda domanda, dopo troppi padroni delle ferriere, auri sacra fames, quanta voglia di denaro nelle tasche ci avete? Bene, grazie a Marco Reggio Emilio. Danilo da Terni. Pronto? Dica. Buongiorno. Io volevo portare una testimonianza di un caso molto simile qua a Terni. Un imprenditore è venuto su dal niente con la terza media, figlio di un piccolo artigiano che trasforma l'azienda in una grande azienda con oltre 500 addetti, una grande superficie di produzione, eccetera eccetera. Questo signore si dà da fare, grazie alle amicizie politiche prende appalti, insomma espande il fatturato, non si fa da parte per tempo, anzi si fa da parte solo quando muore. E quindi questa azienda, che ha lavorato molto nell'indotto delle grandi acciaierie di Terni, ma anche con grandi commesse della difesa, come dicevo, per amicizie con la Democrazia Cristiana, eccetera eccetera, si è sviluppata, ma il padre non si fa mai da parte, muore 2 anni fa e lascia i figli che non sono molto capaci. Quindi voglio dire, questo è un approccio strategico fondamentale. Ho verificato qua sul territorio che può essere un punto debole oltre che un punto di forza. Beh sì, è una storia però diciamo analoga solo per pochi versi, perché per altri è profondamente difforme. Comunque grazie anche a Danilo. Cominciamo da sentire Mauro Castelli. Che impressione ti fanno queste domande e nel bilanciamento tra troppi o pochi padroni delle ferriere e quanta componente di auri sacra fames ci sia nelle storie che racconti nei tuoi libri e per come conosci tanti questi imprenditori, a che punto siamo nella trasformazione antropologica? Direi che tutte le domande sono legittime. Ovviamente nel parterre dell'imprenditoria italiana c'è di tutto. È chiaro che io, avendo intervistato veramente molti, credo di essere ormai a 250 imprenditori, fra i più grandi che ci sono in Italia, mi sono fatto delle idee molto particolari. Innanzitutto io spesso seguo storie di famiglia, storie di imprenditori che sono cresciute da niente e che si sono fatte strada nella vita. Però devo dire che ne ho incontrati anche alcuni che recentemente hanno deciso di abbandonare i loro ruoli di manager, di alto manager, e poi si sono dati all'imprenditoria con successo. Faccio due casi: Salvatore Ruggeri di Valvitalia di Rivanazzano, che era diventato alla fine addirittura presidente di una divisione importantissima della Gressa a livello internazionale, quindi una multinazionale. E pensare che questo qui da ragazzo da 8-10 anni faceva il garzone del barbiere e la mamma, quando prendeva 8 a scuola, gli consentiva di andare a prendere il pane bianco. Ecco, questo 8 anni fa si è messo per conto suo, non gli piaceva più il fondo che aveva comprato la Dresser, si è messo per conto suo e ha fatto un'azienda che da 0 a 350 milioni nel giro di 8 anni fabbrica valvole e raccordi per aleodotti. Questo mi sembra un bel esempio. un altro è quello di Marco Giovannini. Sì. Anche lui è arrivato ai vertici della Superbox, era il numero due in Europa, presidente amministratore delegato della divisione packaging per alimenti. Lui si è messo a comprare un'aziendina che faceva imballaggio, poi ha rilevato una società della Guala, dai fratelli Guala, e adesso è diventato anche lui nel giro di 10-11 anni leader mondiale nelle chiusure per bottiglie con oltre 9 miliardi di prodotti. Ecco, addirittura adesso si sta buttando nelle chiusure per antibiotici, vaccini, fialetti, che lui considera la terza gamma. 22 stabilimenti in giro per il mondo, una multinazionale tascabile, si potrebbe dire. Ecco, questi sono begli esempi. Poi ci sono i discorsi di famiglia, i discorsi, se ne è parlato prima, della generazione dei figli che non vogliono lasciare spazio, dei genitori che non vogliono lasciare spazio ai figli. Però ci sono anche i genitori bravi, quelli che a un certo punto hanno fatto partire da zero. Prendiamo il padre di Diana Bracco, che a 28 anni, con tanto di laurea eccetera, la faceva andare in consiglio di amministrazione a servire il caffè e poi a pulire il tavolo. Ecco, e qui ha fatto tutta la scala dei valori, adesso è Diana Bracco. Eccoci tornati in studio, siamo con Mirko Gasparotto e Mauro Castelli. Mirko Gasparotto, avete sentito i suoi valori e tradotti coerentemente e concretamente nella sua ascesa da manager di un'impresa dove era entrato come fattorino, e poi questa inessenzialità perseguita attraverso l'individuazione di altri come amministratore delegato, mentre lui ha preso un altro ruolo di regia per avere una visione più strategica e anche per fare no profit. Due questioni che erano state poste ai nostri ascoltatori in sintesi erano: uno, ancora troppi padroni delle ferriere, non raccontate balle, questi valori sono assolutamente minoritari, quelli di Gasparotto, se uno guarda nella pancia le imprese italiane. Il secondo è: ma quanta in realtà fame di denaro ci avete? Allora, come cambiare il DNA, diceva quell'ascoltatore Stefano, no? Non è possibile cambiare gli altri. Io partirei dal cambio di noi stessi, perché tante volte siamo noi che determiniamo l'atteggiamento nelle altre persone. Quindi anche se uno è un dirigente o altro su un'azienda, il fatto di come si pone sicuramente fa pensare o riflettere la controparte, che potrebbe essere l'imprenditore, insomma. Quindi assumere un atteggiamento propositivo, assumere un atteggiamento proattivo nell'azienda, fa sì che l'azienda ti dia l'opportunità, ti dia la possibilità, e le aziende hanno bisogno di risorse in questo senso. Quanto conta l'ambizione e quanto contano i soldi? Se non c'è ambizione, ovviamente non può esserci l'impresa, l'imprenditore, eccetera. L'ambizione deve esserci ed essere un fuoco ardente che alimenta tutte le giornate che ci sono. E il denaro conta moltissimo, ma la cosa che conta molto di più è avere il proprio percorso. Avere chiaro il proprio percorso, avere chiaro i propri riferimenti, avere chiaro dove si vuole arrivare. Ad esempio, ci sarà sempre un imprenditore che ha più di te, che fattura più di te, che ha un patrimonio superiore al tuo, eccetera, e se tu affidi al fatto di voler di più, non arrivi mai a, comunque, ad essere soddisfatto, comunque ad essere insegui l'obiettivo importante, non per me, che è quello di diventare il più ricco del cimitero. Quindi l'effetto è quello di avere sicuramente un riferimento di quello che si vuole diventare nella vita, di che uomo, di che imprenditore e che passioni si vogliono sviluppare nella vita. E questa è la cosa, secondo me, fondamentale. Sentiamo ancora un po' di ascoltatori con le loro domande. Marco da Milano, prego Marco. Sì, buondì, una domanda veloce. Io volevo capire sulla base di che cosa erano stati scelti i collaboratori del signor Gasparotto. Cioè, perché spesso e volentieri nelle aziende ci si trova a confrontarsi con dei colleghi, impiegate o situazioni che ostacolano il lavoro altrui. Quindi insomma vuole sapere se ha preferito gli innovatori o gli adulatori, tanto per usare due formulette sintetiche. Grazie a Marco da Milano. Stefano da Monza. Sì, buongiorno. Intanto grazie per l'opportunità di parlare. Ci figuri, venga al punto. Sì, il punto, volevo fare anche una piccola congiunzione tra quello che erano molte reazioni dei messaggi sia dei giorni scorsi, delle settimane scorse nei suoi confronti, che di quelle che immediate di adesso, del tipo ma è un caso sporadico, forse una volta 30 anni fa eccetera. Secondo me si perde un po' di vista quello che ha appena detto il signor Gasparotto, che forse bisognerebbe partire da noi stessi, capire che il cambiamento deve partire da noi stessi e cercare di cambiare la nostra di mentalità, di vedere le cose. Questo è un grave problema. Io scrivo progetti per la Comunità Europea e vedo, incontro tantissime imprese, e spesso e volentieri mi viene quasi la reazione immediata di dire: ma caspita, perché questa persona non riesce a vedere? Poi io invece riesco a pormi in una situazione di dire: ma non è che non sono stato chiaro e non ho fatto capire che questa cosa non è utile a me o a qualcun altro, ma questa cosa è necessaria, perché non verranno, non arriveranno più i tempi di prima, ma sicuramente dovremo adeguarci a certi cambiamenti, dovremo entrare in questa stanza della regia di cui ha parlato Gasparotto giustamente. Grazie perché... a Stefano che ci sottolinea l'aspetto, per così dire, antropologico di questa maniera di vedere le cose, che inizia vedendo da se stessi e nei valori dentro se stessi, li traduce con un linguaggio economico, con il perseguimento dell'utile, ma anche nella maniera poi di vivere l'impresa e di fare attraverso l'impresa qualcosa che non sia semplicemente il moltiplicatore per diventare più ricchi del cimitero, che mi sembra una frase che dà l'idea anche del limite oltre che di un obiettivo. Ambra da Milano, qual è la sua domanda? Sì, buongiorno. Allora, io la mia domanda era se era possibile approfondire un pochino di più l'aspetto del percorso e del concetto di formazione, perché io ho apprezzato molto questa sua intervista e la conoscenza di questo imprenditore, e la ringrazio perché glielo dico da una parte un po' particolare. Io sono una sindacalista della CGIL del settore chimico, e quindi vedere e conoscere un imprenditore strutturato in questo modo mi fa molto piacere. Non mi interessa sapere i numeri, saranno pochi, saranno tanti. Io posso dire che qualcosa anche dal punto di vista degli imprenditori si sta muovendo in quella direzione, e penso che in questo modo si faccia il bene dei lavoratori e dell'impresa, e quindi vedere che ha a cuore in questo modo la formazione, mi diciamo che mi ha fatto partire la giornata. Ecco, io adesso spero che Ambra non equivochi, però questa maniera di Ambra anche di fare il sindacato con l'orecchio attento, ognuno poi nella sua tradizione e perseguendo, quando si fanno le trattative, con la massima intransigenza dei propri obiettivi, mia moglie di dire: Ambra, ti sposo, ma per capirci, non per fare la battuta. Adesso Gasparotto tenta di rispondere a tutti sinteticamente, come bravo. Allora Marco che mi chiede la scelta come faccio per la scelta dei collaboratori, dico sempre: quando un imprenditore sente la mia storia e dice ma come hai fatto, che io ho trovato tutti un collaboratore mi ha fregato l'altro, io rispondo all'imprenditore laconicamente: ognuno ha i collaboratori che si merita. E lì è una risposta non provocatoria ma realistica. La scelta dei collaboratori è fondamentale. Io uso un sistema che si chiama sincronizzazione delle mappe, cioè metto in parallelo la mappa mentale del collaboratore allo scenario complessivo del gruppo e vedo quanto si possa camminare insieme. È un'attività che l'imprenditore deve fare assolutamente. Naturalmente parlo dei miei manager, quindi 10-15 persone all'interno delle 400 del gruppo sostanzialmente, però ognuno poi lo fa a cascata questo, quindi la scelta dei collaboratori è un'attività fondamentale da questo punto di vista qua. Poi invece ad Ambra, per quanto riguarda il percorso formativo, direi che esistono sicuramente, la formazione non manca in Italia, è strutturata a vari livelli eccetera, però la gente ha poca voglia tante volte di andare ad imparare ancora, continuare ad imparare, a disegnare ad esempio un percorso formativo di crescita. Io invece quello che consiglio, perché a me la formazione, la lettura, l'informazione ha dato moltissimo nella vita. Poi io sono un applicatore, nel senso che quello che ho imparato l'ho applicato e ho ottenuto risultati. Quando vado a fare il testimonio eccetera dico: diffidate sempre da persone che vi fanno formazione, che poi non hanno prima di tutto prodotto loro i risultati, perché uno che forma deve prima di tutto aver saputo nella sua vita creare queste cose che insegna. Posso fare un'ultima domanda brevissima? Naturalmente dalla parte del vetro dicono che sto sforando, mi vogliono sparare, vogliono farmi, praticamente sono nelle mani di quella CGL che qua, questi così ragazzi, quindi le regole, se si invoca il rispetto bisogna per primo rispettare. Volevo solo dirvi che Gasparotto ha detto che con questi sistemi è riuscito intorno a sé a trovare avere delle verifiche dai suoi collaboratori, che a volte lo hanno lasciato senza parole, e a volte però viene anche poi che poi c'è chi ti delude. Gasparotto, di fronte alla delusione che si fa nell'impresa? Si butta via la gente che ci ha deluso? No, si prende atto, si riposiziona la persona in un ambito dell'organigramma più congruo, si sbaglia, io ho sbagliato un po' di volte nella mia carriera a scegliere le persone, quindi si deve prendere atto, si condivide con l'imprenditore, con il collaboratore la scelta di riposizionamento, poi sta a lui ovviamente rimanere o no. Va bene, io spero che questa testimonianza vi abbia colpito a casa, perché ve l'ho proposta proprio per questo, per colpirvi e per abituarci anche a imprenditori di questo tipo qua. Gli imprenditori non sono tutti così, forse non sono così neanche nella maggioranza, però questi ci sono, e di questi bisogna parlare con loro, bisogna che questo modello si diffonda. Grazie in regia, perché non mi hanno sfumato, giusto perché Gasparotto deve essere piaciuto in regia, perché a me sfumano sempre con 5 minuti di anticipo. Grazie anche a Alessandro Marco Tulli in redazione, oggi ringrazio solo lui. La linea generale radio, appuntamento a domani.